Thank you. E buonasera, buonasera a tutti. Questa è come sempre Pink Moon, ogni sera alle 21, ogni lunedì. Questa sera non sarò da solo, ancora una volta. Ho qui con me Alberto. No, ti viene già da ridere, eh? Sì, mi viene da ridere, poi spieghiamo perché mi viene da ridere. Sarà una puntata tematica su quei pazzi incredibili di Elio e le storie tese, che tutti quanti voi penso conoscerete, ma mai quanto quest'uomo, che è una sorta di feticista di Elio e le storie Ma non tese. nel senso che facciamo le cose strane con tutti loro, eh. E quindi andremo a scandagliare per quanto possibile, perché ci siamo resi conto prima di iniziare che ci sono troppe canzoni da mettere che meritano e abbiamo già azionato la censura. E niente, vi lascio alla sigla e ci ribecchiamo dopo. Eccoci ritornati qui a Pink Moon, questa sera in versione Elio e le storie tese. E rassicuriamo la mamma di Eli o di Alberto che non canterà questa sera, a meno che non voglia. No, ma volevo fare, innanzitutto buonasera a tutti, volevo fare la cosa più italiana possibile, cioè saluta, ciao mamma, perché visto che loro sono veramente i geni della, come posso dire, della citazione del trash italiano proprio, allora lo faccio pure io. E scusami, lo so che tu mi hai dato un nome bellissimo, però purtroppo ormai è così e mi conoscono con questo nome. L'ha chiamato Alberto. E lui cosa fa? Si fa chiamare Eli. Ma non è che l'ho scelto io, me l'hanno detto. Me l'hanno affibbiato. Infatti io dopo un bel po' di mesi che lo conoscevo sono venuto a sapere di questa cosa, che si chiama Alberto in realtà. E anche a tutta la gente che pensava ci fosse Elio in trasmissione, ovviamente no. E anche perché dicono che Elio non sia così simpatico dal vivo. Ah, ecco, questa è una cosa, è un mito da sfatare. Cioè, chi l'ha conosciuto, per esempio, dal vivo, dice che lui sia una persona molto introversa, molto scontrosa a volte addirittura. Tant'è vero che invece viene, diciamo, i personaggi più trascinanti da un punto di vista anche ironico del gruppo sono considerati Faso, il bassista, Rocco Tani. E Rocco Tani, che è tastierista, nonché autore di qualche testo per la Jalapas. Vabbè, ma voglio ricordare che Rocco Tani, che è stato anche il tastierista dei Righeira negli anni 80. Grande, grande Rocco Tani. Oltre poi ad aver suonato con Daniele Silvestri e anche altri, diciamo, musicisti italiani. E oltre a Mangoni, che è colui il quale si accolla di fare molti, molti personaggi all'interno delle canzoni di Elio e le Storie Tese. Vabbè, diciamo la mascotte. Sì, allora, e live non può mancare. Io direi di partire dalla spiegazione del primo brano che metteremo, che non è di Elio e le Storie Tese. Ah, ok, me ne ero già dimenticato io. Vabbè, volevo citare innanzitutto... Siamo appena alla seconda Peroni, vorrei sottolineare. Esatto. Io volevo citare prima di mettere questo gruppo che ovviamente ha influenzato Elio e le Storie Tese in quanto rock demenziale, anche se loro suonavano di merda e si vantavano di questo, e sono gli Skiantos. E anche perché secondo me, a mio modesto parere, definire le stesse rock demenziale è un po' riduttivissimo, diciamo. Hanno fatto praticamente qualsiasi genere esista sulla faccia della terra. Però volevo citare prima di tutti forse il precursore iniziale di tutto il rock demenziale, che è Clem Sacco. Quel pazzo che ha fatto mamma dammi l'uovo alla coppia e cose così, che nel 54, mentre Celentano iniziava un po' ad ancheggiare, però sempre in maniera, diciamo, politically correct, lui invece era un pazzo furioso, un po' più scorretto, diciamo. Esatto. E poi ovviamente gli Skiantos sono arrivati alla scena del rock demenziale con l'album epocale Monotono, che ha influenzato decine e decine di musicisti, senza arrivare poi a quelle aberrazioni come penso io di Jam Boy e simili. Non so se a te piacciono. No, vabbè, diciamo che li ho ascoltati, non sono un fan sicuramente, non li disprezzo, però mettiamola così. Io non mi scuso con i Jam Boy. Io sono politico. No, vabbè, volevo un attimo spiegare perché della citazione degli Skiantos. Noi citiamo gli Skiantos perché il primo CD registrato, anzi il primo disco registrato da Elio e le Storie Tese, appunto, partiva proprio con una citazione degli Skiantos, perché loro utilizzano il vocoder, che è utilizzatissimo in monotono soprattutto, per camuffare le proprie voci. Vabbè, in questo caso Elio e gli Eli, come amano definirsi, lo utilizzavano per simulare dialoghi tra giovani adolescenti, come infatti la traccia iniziale dell'album. La serie Sparaci i Deep. Sì, che parlano con questo slang dei giovani milanesi che ci stanno molto dentro, perché capì? Esatto. Ci andiamo a fare la spuma e così parlano. E quindi ora vi beccate la versione emiliana di questo slang giovanile, direttamente da Monotono. Sono gli Skiantos e questa è Ettadone. Ma che cazzo me ne frega? Genere, ragazzi, genere! Ehi, sbarbo, smolla la biga che slumiamo la tele. Sei fatto duro. Sei fatto come un copertone. Ci facciamo? Sbarbi, sono in paradura. Ok, nessun problema, ragazzi. Nessun problema. Sbarbi, sono in paratura. Schiodiamoci. C'hai della merda? Ma che viaggio ti fai? C'hai una banana gigantesca? Oh, c'hai della merda, no? Ma che viaggio ti fai? Intrippato! Brutta storia, ragazzi, brutta storia. C'ho delle storie tese. C'hai delle sbarbe a mano? No, c'ho delle storie. Fatti questo slego. 1, 2, 6, 9! Questa era Eptadone degli Schiantos. Si parla di anni 70, anzi fine anni 70, cavalcando l'onda del punk e quindi dando un taglio demenziale ai testi. Basterebbero pochi titoli per rendersi conto della demenzialità degli Schiantos. Però Elio e le storie tese sono andati forse oltre. Troppo oltre, in maniera incredibile. E nei loro concerti cioè, di solito una canzone d'apertura e una di chiusura. Quella d'apertura è cassonetto differenziato. E noi, per essere dei veri citazionisti come loro, utilizzeremo la canzone iniziale, la canzone finale. Non vi diciamo qual è la canzone finale, ma è una delle, secondo me, la più geniale. È forse geniale. La più famosa anche. Esatto. Però vabbè, comunque, appunto, lo schema, cioè, non è casuale. Perché? Perché si dice che loro siano dei maestri della citazione. Cioè, in ogni canzone, vabbè, poi ci sono quelli pazzi che se andate su Wikipedia ci vedono veramente come se hanno citato i canti gregoriani, che ne so, in una canzone metal, sono pazzi questi. Però è vero che la loro cultura, sia musicale che extra musicale, è talmente ampia che li consente di essere, cioè, di metterci in mezzo tanta roba che al primo ascolto magari un pubblico non attento non potrebbe cogliere. Infatti c'è bisogno, io ho avuto bisogno di anni e anni e anni, e chissà quante cose ancora non ho scoperto di loro. Vabbè, sono i Tarantino della musica, va, si cibano di musica loro, come Tarantino. Potrei dire i Black, per fare una citazione colta. I decostruzionisti della musica. Sì, si è parlato pure di dadaismo e surrealismo. Anche surreali, cioè, direi. E loro aprono ogni concerto con cassonetto differenziato per il frutto del peccato, che ovviamente riprende il tema dei bambini abbandonati, i cosiddetti figli di nessuno, gli esposti, come venivano chiamati a Napoli. Riprende anche altri temi sociali, per esempio quello degli scioperi, in questo caso quello lo sciopero del lavoro, inveiscono contro il lavoratore che dice vai a scioperare e non ti accorgi che non c'è un cassonetto apposito, e loro lo creano in questa canzone, quindi andiamo a beccarcela. Questa è Cassonetto differenziato per il frutto del peccato. Hi, we are Wayne Jackson and Andrew Love, the Memphis Horns. And you're watching Elio e le storie tese. Il tema della maternità

Vedremo se ce la faremo nel corso della puntata. Volevo un attimo volevo un attimo riprendere la questione di cassonetto differenziato, perché appunto, sempre per la strada delle citazioni, a un certo punto loro dicono, cioè loro apparentemente quando cantano dicono delle cose che ai più possono sembrare incomprensibili. Dicono nel Bolivecic. Per chi non lo sapesse, Otar Bolivecic, che non è il vero nome di questo personaggio, è il produttore che ha scommesso su di loro, è quello che proprio li ha fatto, cioè li ha prodotto i primi album, li ha fatti registrare quando e loro... E quindi li ha pescati... Sì, no, perché loro erano relegati un po' alla realtà milanese, cioè ricordiamo che il gruppo nasce appunto... Zelig. Sì, nasce allo Zelig questo, ma il gruppo, cioè il fulcro originario nasce in, una, in un liceo, liceo Einstein di Milano, dove andavano Elio, andava Mangoni, che appunto è la mascotte un po' del gruppo, e andava il fratello di Rocco Tanica, che per il anni manager. È stato il manager, non so se lo sia ancora, però è stato per anni sicuramente il manager del gruppo, e quindi... Cioè, questo produttore a un certo punto li ha visti allo Zelig e ha detto, vabbè, voi fate un disco, e loro avevano un sacco in realtà di canzoni già pronte, che cioè avevano soltanto bisogno di una registrazione, e quindi questa è la citazione, ricordiamo che la canzone è del primo album. E quando hanno registrato per la prima volta in stereofonia, tutti quanti si sono accorti di quanto cazzo fossero bravi. Perché tecnicamente sono dei mostri. E vabbè, stavamo parlando adesso della voce di Elio in controtempo. Sì. Nel finale della canzone. Tra l'altro, lui mi sa che faccia anche l'attore teatrale a tempo perso. Ma è diplomato al conservatorio. È un ingegnere. Oltre ad essere un ingegnere elettronico, è anche laureato al conservatorio in canto e flauto traverso. Tant'è vero che poi ogni tanto compare, soprattutto nelle apparizioni televisive. Tipo dalla Dandini spesso ultimamente a parla con me è stato con col flauto. La prossima canzone è una canzone che tu ami molto e si chiama Uomini col borsello. Sì, io cioè in realtà questa, anzi questa la dedico al mio amico napoletano Marco perché la cantavamo sempre insieme, è assolutamente qualcosa di geniale perché lui riesce a mettere insieme due cantanti. Cioè loro mettono insieme due cantanti che hanno in comune soltanto l'origine geografica. E sono Riccardo Fogli, ex membro dei Pooh, ex cantante dei Pooh, famosissimo anche da solista, e Scaldi, cantante di Pittura Fresca, che era il gruppo reggae, quello che cantava Papa Nero, che andava in voga. Sì, che andò molto in voga dopo la partecipazione a Sanremo. E loro in realtà in questa canzone, cioè questa è la canzone, la perfetta canzone in stile Pooh. Che poi c'è la canzone italiana, è la canzone leggera italiana. Sì, è la canzone melenza italiana, proprio. E questo è geniale, perché poi ci inserisce dei pezzi proprio che sono ragamuffin, cantati in veneziano stretto, non si capisce niente, ovviamente. E soprattutto c'è una citazione finale, che non so se qua nella registrazione avremo, di Robin Hood. Della favola di Robin Hood. Vabbè, comunque insomma. Eh no, in quello in studio c'era la citazione di Robin Hood. Comunque, vabbè, poi loro utilizzano un sacco di intramezzi tra un brano e l'altro negli album, per cui è difficile capire dove finisce la canzone, esatto. dove inizia il delirio. Anche perché, come ci ricordava Ciccio Svelo, sono stati nel Guinness dei primati per aver fatto una versione di Cara ti amo di 12 ore più o meno. 12 ore di variazione sullo stesso tema, sullo stesso brano, Teatro dell'Elfo a Milano. Vabbè, poi spiegheremo anche la storia di Cara ti amo, io partirei col brano adesso. Questo è Uomini col borsello. Ragazza che limoni sola, denoti spigliatezza, tant'è che c'è chi invidioso ti sussurra così. Beh, amona. Che in veneziano vuol dire? Che se non ti mi che non ti capisci un cazzo. Ti metti in giro tutti i giocati. Non ti compro più niente, te ne vai più la sporata. Il ragazzo spigliato col borsello, che tal può definirsi? Lui lo sa che il borsello contiene quel bisogno d'amore che hai tu, ragazzina spigliata, che limoni da sola. C'è un amore in ogni borsello, se il tuo è proprio in quello che sfoggia lui, raggiungi il pacco capello. ragazza che limoni sono, fermati un momento e ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri al parco capello che ti guardava negli occhi senza parlare? Quel ragazzo è il mio figlio! Ragazza che limoni sola, limona con fierezza, sento che tu maremma maiala puoi fare breccia nel cuore di un innamorato. Con gli occhi di Venturbi lui per te ha progettato un borsello di vero budello. Frena quel tuo mulinello. Yes, ragazzina, io ti vedo già donna, sarà l'effetto del budello. C'è un amore in ogni borsello, se il tuo è proprio in quello che sfoggia lui. Ritorna al parco cappello, lo troverai là, ma in quel capannello di uomini col borsello. E gli altri in finto bue, in finto bue, in finto, finto, finto, finto, finto. Ogni figlio a me li chiedo giù, voglio proprio vederci e ti sei riscazzo. Se manco capello e sono duro da tre due, e me li miei e fa due. Vedi me pensare che ti cani il cuore, e sono sempre degno col borsello di due, una se fai del figlio su che vado e con il porco il leo pure in me mi so quanto è mio scavezza e mi fumo troppo. Era Uomini col borsello, non era la versione in studio, era un live, vabbè, ma cioè, d'altronde questa canzone ci dà lo spunto anche per poter parlare delle collaborazioni infinite, delle infinite, veramente infinite, ma poi le più assurde che possono andare, vabbè, in questo caso ve l'abbiamo detto, erano Riccardo Fogli e Scalbi, ma c'è James Taylor piuttosto che Patrick Hernandez, Enrico Ruggeri è uno dei più affezionati. C'è da Bissio ad Abbatantuono, quindi non solo cantanti, Giorgia, Alex Baroni, che è stato per tanti anni il loro corista in diverse situazioni live. E su Uomini col borsello cosa volevi dire? Che volevo dire? Mi no, del fatto... Ah, perché si parla di questi uomini col borsello? Cioè, la storia è ambientata al Parco Capello, che... nell'immaginario dei milanesi degli anni 70, cioè diciamo a cavallo tra i 60 e i 70, era un po' il parco, diciamo, dei fricchettoni, dove si consumava l'amore libero tra gli giovani uomini e le giovani donne, giusto per citare le Storie Tese. E praticamente, perché parlano del borsello? Perché appunto questi, mettiamola tra virgolette, comunistoidi, non vorrei che si offendesse nessuno qua, cioè, portavano la borsa a tracolla, simbolo insomma di questo loro essere fricchettoni, e misuravano l'essere figo, l'essere di tendenza in base al pregio proprio del borsello, che non doveva essere in finto bue. E quindi questa insomma è la spiegazione un po' della canzone, mentre la prossima, vabbè, si chiama Essere Donna Oggi. E diciamo che Elio e le storie tese hanno affrontato spesso il tema di certe donne. Ovvio che non andiamo a fare uno stereotipo, a dire che tutte le donne sono così, però spesso hanno criticato e hanno fatto molta ironia su un particolare tipo di donna. E così come anche, vabbè, diciamolo, le vettero femministe, cioè diciamolo pure senza bisogno di tanti giri di parole. E quindi essere donna oggi è un po' un inno. Sì, è un po' un'apologia di quelle che possono essere proprio le istanze del femminismo più radicale. Esatto, perché ovviamente non siamo contro il femminismo. Non vorrei dire ottuso, ormai l'ho detto. Però molte volte, purtroppo, a volte diciamo che privilegiano queste loro rivendicazioni, che poi possono essere anche giuste, perché voglio dire, hanno vissuto tanti anni sotto. A volte. E diciamo sotto metaforicamente, e ci fermiamo qua. E niente, quindi praticamente anche qua una canzone tra le più amate dai fan, perché anche qua ricca di citazioni da Loretta Goggi. C'è chi dice anche Marco Masini. Perché lo fai? Perché lo fai? Noi non l'abbiamo ancora colta questa citazione. E c'è una grande citazione di una pubblicità degli assorbenti, che non quella, mi ricordo se alla Luvenia o qualcosa. Sì, quella in cui insomma la tipa si butta col paracadute dall'aereo. Vabbè. E quindi non la prenda a male nessuno, no, questa canzone. No, ma non penso che loro abbiano avuto mai intese offensive. Stati da molti considerati un gruppo sessista per certi versi, forse per un linguaggio esplicito. Cioè, però voglio dire che loro prendono per il culo tutti. Cioè, la verità è questa. E quindi è ovvio che se tu sei una persona intelligente, accetti una critica intelligente. D'altronde, se persino Pippo Baldo si è complimentato con loro perché riuscivano a fare della satira senza scadere nella volgarità, cioè mi sembra un po' eccessivo prendersela per i testi delle canzoni. Infatti andremo poi a ripescare quel famoso live del primo maggio sul quale c'è da spendere veramente troppo, e andiamo a sentirci Essere donna oggi. Giorni di tristezza e poi corri incontro alla vita. Tu, io? Col tuo paracadute ti getti in volo e vai. Atterri nel giardino di casa, poi ti muovi sicura e fresca come in un mattino di primavera. Nella tua cameretta c'è un signore che aziona la pressa sui tuoi piccoli amici di Ovatta, che invocano aiuto, ma lui te li ruba e va via. Tu piangi e insegui i tuoi morbidi, teneri, fradici, tappi per la figa. I tuoi tampi per la figa pelosa li trovi anche in confezione Magnum da 80 pezzi. I suoi bei sigaroni e morbidoni. Ma vorrei farti una domanda. Ti sei accorta che io sono un ometto? E vorrei fartene un'altra. Dormi adesso, è tutto finito. prestigio del tuo ciclo mensile, ostentando sicumera. Essere donna oggi, aspirare al ruolo che la storia ti deve, quello di simpatica, facciosa, imprevedibile, nocchiero di un veliero proiettato verso il mare del 2000 al grido di cazzo subito. Cagatrice dei tuoi figli come Loretta Goggi, nella freccia nero in maledetta primavera, mente autonoma, donna roccaforte quando il flusso è più copioso, sbarazzina quando è il caso, o marangona di un clitoride mai domo al grido di ma vorrei farti una domanda. Sei accorta che io sono un ometto e vorrei fartene un'altra. Hai le mestruazioni. Questa era Essere donna oggi. E abbiamo... Vabbè, un attimo, anche se è finita, la volevo dedicare a una mia amica molto vetero, che non so se spero che ci stia ascoltando. Il nome in codice è Milla S. E non sveliamo le identità. Esatto. Stavamo cercando di capire quali andassero bene per la playlist. Ah, cioè, vanno bene tutte, solo che sono è ovvio troppe, che sono troppe. Sono troppe. Ci stavamo ricordando di grandi hit. Forse abbiamo capito che è meglio privilegiare quelle meno conosciute. Quindi... cioè, se non sentite La terra dei cacchi, Cara ti amo, Il vitello dei piedi balza, non state là di però io tranne volevo. L'ultima, che però... vabbè, è l'ultima, ti prendeva mazzate se non la mettevi. È immancabile. La prossima è Carro, che è una specie di rivisitazione di dei proverbi, dei modi di dire. E qua arriviamo alle citazioni, appunto, cioè loro utilizzano le citazioni storpiandole, adattandole alle esigenze e musicandole, vabbè, poi in maniera magistrale sempre. E questa è una delle canzoni meno famose forse del primo album. Nel primo album ricordiamo che c'era John Holmes, c'era Caratiamo, che non abbiamo fatto in tempo a scaricare, dice. E quindi, diciamo, la prossima prende in giro un po' tutti i modi di dire, un po' artefatti, diciamo, quei proverbi, quel modo di parlare per frasi fatte. Non ci sono più le mezze stagioni. Sì, proprio questo è lo stile. E allora, questa è Carro, dall'album... Come si pronuncia? Aspetta. Elio Samaga Ukapan Kariyana Turu, che in lingua cingalese, quindi dello Sri Lanka, vuol dire sboriamo e scorreggiamo con Elio in allegria. Questo è Carro. Avevano detto che donne, buoi e motori, son gioie e dolori, e di non mettere le donne i motori davanti al carro, davanti ai buoi. Ma io l'ho fatto e la donna volante, pericolo costante, mi ha rotto il carro. E siccome chi rompe caga, i cocci sono suoi e dei buoi, dei paesi suoi. La donna volante caga coi suoi buoi. Accidenti alla donna volante, al pericolo costante. Ed ora che non ho più carro, che cosa ci metto davanti ai miei buoi? Cosa fare riguardo ai motori e riguardo alle donne se il carro non c'è? Ai motori farò la benzina, ma alle donne che cosa farò? C'è carenza di carro e le donne ne soffrono un po'. Accidenti alla carenza di carro, all'abbondanza di pericolo costante. Sempre più verde, anche il vicino è verde, aiutatelo. Entra ora in scena una ditta il cui portavoce mi ricorda di dare un colpo al cerchio ed uno alla botte piena ed uno alla moglie ubriaca. Però tra il dire e il fare c'è di mezzo e il e una rondella non fa primavera, per cui mi dona un nuovo carro munito di lanciarazzi. Per bombardare in maniera costante la donna volante. Lancio i miei razzi nel cosmo e la donna volante mi appresto a colpire. Lei per evitare l'impatto si infila in un nembo, ma è un tragico errore. Non si tratta di un nembo normale, ma di un nembo seguito da Kid. Si è infilata nel buco del culo di Nembo Kid. Morendo Dio li fa e poi li accoppa. Ho capito, la vita è così. La gatta frettolosa ha fatto i gattini nel giardino del re. Tanto il re è cieco. I gattini corrono per il prato. Il re dice: sento un rumore di gattini che corrono sul mio prato. Intanto il vicino, affacciatosi sul giardino, dice: restituiscimi i miei gatti, vai. Ed era Carro dall'album dal nome impronunciabile. E la prossima è anche un must. E si chiama Disco Music ed è un po' tutta giocata sui luoghi comuni, anche qua, di chi ascolta magari la musica elettronica, la musica disco, però è estendibile anche a un tipo di ascolto magari sì frettoloso. Tra l'altro Disco Music, oltre ad aver vinto un premio, vinse il premio come video e miglior canzone italiana agli MTV Music Award, in cui loro si presentarono confermando tutti gli stereotipi degli italiani, quindi si presentarono in canottiera facendosi a Dublino, fu la premiazione. Si presentarono in canottiera, Elio parlava dimostrando di non sapere l'inglese, quindi parlava solo in italiano, confermando la cosa vera, tra l'altro, che gli italiani sono degli ignoranti sulle lingue, mentre gli altri facevano finta di farsi i cavoli loro, stavano là. Non cagavano nessuno. Sì, si infilavano il mignolo nell'orecchio, si scaccolavano, facevano queste cose qua. E la canzone è tratta da Crack Crack Crack Crack, che ovviamente sono la persona meno indicata per pronunciare. Ma io lo faccio dire a te. Perché è il primo album dopo la morte di Fayez, e qua è il momento tragico, diciamo, della serata, perché nel 98 muore Fayez, che era il polistrumentista del gruppo. Grande sassofonista. Sassofonista, no, ma poi l'istrumento suona chitarra, suonava piano, cioè suonava tutto, suonava, cantava. E morì durante un concerto della Biba Band, perché loro, oltre al progetto delle storie tese, hanno dei progetti paralleli, tra cui la Biba Band, che nasce come cover group The Weather Report, poi c'è il gruppo che fa cover di Frank Zappa, e poi vabbè, ciascuno di loro ha delle attività parallele, diciamo, dei progetti paralleli. Non ultima la squadra di baseball, la Aves Milano. E niente, praticamente Disco Music ci dà lo spunto anche per parlare dei video di Elio e le Storie Tese, perché loro, oltre a essere dei grandi musicisti, utilizzano in maniera assolutamente originale anche la forma del video. Il video è tutto giocato appunto sulla storia di Zorro, in cui inizia in metropolitana. Sì, poi alla fine del video si scopre che in realtà è un incubo del sergente Garcia, che si sogna un mondo fatto solo di Zorro. E diciamo, questo poi è conosciuto perché poi è stato girato anche negli anni in cui i video MTV avevano spopolato anche tra l'opinione pubblica, però ne ricordiamo altri di video bellissimi, secondo me. C'è Servi della Gleba, ha fatto un fotoromanzo che è assolutamente qualcosa di imperdibile. Dopo arriverà Born to be Abramo, che vabbè, ve lo dovete vedere, è difficile da spiegare. E vabbè, ce ne sono altri comunque. E quindi beccatevi da Crack Crack Crack Disco Music. Disco Music, tu mi piaci così tanto perché fai ballare tutti quanti e dalle volte fai ballare anche me. Coi pantaloni scampanati danzerò balletti degni del migliore John Travolta. Disco Music, Disco Music, tu sei molto coinvolgente. Disco Music, io ti amo, poi ti odio, poi ti amo, poi ti odio e poi ti apprezzo. E canto Please Don't Let Me Be Misunderstood mentre parcheggio nel parcheggio l'Alfa Sud e mi precipito giù in pista perché sta per cominciare la Disco Music, quella degli anni 70, con tipico ritmo incalzante di Cassa Rolante e Charlie Stone. E tu, se mi vedi seduto in due spate, sappi che sto aspettando la dance, la dance, la dance. E vedi che dice la mente. Disco music, disco music, col volume l'autoradio mi distruggi. La macchina ha un impianto che è costato dei milioni e me ne vanto. Io non capisco tutto questo rock and roll, io non capisco l'acidore mi fa sol. Io non capisco, non capisco, non capisco, allora ballo la disco music e viva la disco music col tipico ritmo incalzante di Cassa Rolante. Questa è la Disco Music e ci dà lo spunto per parlare, ecco, dei live di Ernesto De Tese. E i famosi CD brûlé. Sì, no. Innanzitutto diciamo perché... Ah, il non, è che, no, non è che lo spunto ce lo dà il CD brûlé su Disco Music. Perché praticamente, per chi ha visto un loro concerto, loro fanno il blocco disco, il blocco dance, che è Disco Music, la chanson e Born to be Abramo. Che sentiremo, questa è un'anticipazione di oggi. Le danzerecce. E soprattutto, vabbè, loro hanno introdotto questa novità, i CD brûlé, che vuol dire che loro registrano durante il concerto, il live. Tu quando e dopo lo masterizzano su CD, o se tu hai pochi soldi vuoi risparmiare te lo mettono sulla chiavetta USB. No, questo non lo sapevo. Semplicissimo. Tu ti porti a casa il live del concerto a cui hai partecipato. Appena assisti. E che generalmente è di un livello superiore proprio, sia musicalmente che a livello di spettacolo, perché loro come fanno, cioè fanno cabaret dal vivo anche come lo fanno. Abbiamo qui con noi un CD Brulé. E abbiamo qui con noi un CD Brulé, Bari 2007, Piazza del Ferrarese, per chi se lo ricorda quel concerto. E quindi, vabbè, evento imperdibile il concerto, io spero per voi che ne abbiate visto, ne vediate uno nella vostra vita, perché loro sono totalmente fuori di testa, fanno città, cioè a parte, voglio dire, comincia, che ne so, questo concerto appunto è mio CD Brulé, comincia con l'intro di Shine On Your Crazy Diamond dei Pink Floyd, e poi parte Cassonetto Influenzato per Puto e Peccato, cioè non c'entrano un cazzo tra di loro. Ed è questo il bello, perché poi loro costruiscono tutte le storie, interagiscono col pubblico. Per esempio l'ho visto due volte gratis a Bari, e cioè, in entrambe le occasioni Elio non perdeva veramente l'attimo per dire: ah, guardate, il concerto è gratis. Quindi tu sbagli, cioè, sai, o sbagli un accordo là, fatto, o sbaglia un... sbagli i tempi là, tanto chi si deve lamentare, è gratis il concerto, non è che possono chiedere in boss. E anche qua comunque dimostrano, diciamo, una grande affezione col pubblico. Io l'unica volta che li ho visti è stato alla Notte Bianca di, penso, 3-4 anni fa, dove c'era veramente un diluvio universale che ha rovinato tutto, però sono senza dubbio da vedere più e più volte live. Tu hai mandato lo spot per caso? No. Mentre stavamo fra peperoni e cose varie. Quindi vabbè, a questo punto lo mandiamo dopo Born to be Abramo, che è stata censurata, come tante canzoni. Diciamolo, Born to be Abramo è stata censurata perché citava ben 5 canzoni. Adesso poi mi serve... Vabbè, le canzoni sono, vabbè, Resta con me di Domenico Modugno. Non me la sa. Sì. Poi c'era... sicuramente c'era Born to be Alive di Hernandez. Che poi ha rifatto, c'era questo pezzo con loro. C'era You Make Me Feel, sicuramente. Di chi è? Di Sylvester. Resta con noi, Signore la Sera, ed Esci dalla tua terra. Per una canzone che, come dicono sempre loro durante i concerti, è fantastica perché mischia sacro e profano. E questa è Born to be Abramo. Resta con me, Signore la sera. Resta con me e avremo la pace. Fammi impazzire, fammi penare, la notte mai più scenderà. Ti porteremo i nostri fratelli, li porteremo lungo le strade. Mia, non m'importa, non passate, non m'importa chi t'ha avuta per le vie del mondo, Signore. Non m'importa, non passate, non m'importa chi t'ha avuta, resta con me, con me. Ce n'è mica, dove credi? parola di Yahweh. Spiagge abbandonate le han lasciate i pescatori, son partiti con Gesù. La folla che osannava se n'è andata, ma in silenzio una domanda ha. Sembra i dodici portar, poi c'è qui Abramo, quello che lasci tu lo conosci, il tuo Signore cosa ti dà? È il mio popolo, la terra e la promessa, parola di Yahweh. Parola di Yahweh. Radio Transizione di Fase, la radio senza amici di Maria De Filippi. We are the music makers. Ed era Born to be Abramo con la featuring di Hernandez. Patrick Hernandez. Patrick Hernandez, che non è l'attaccante del Bari. Messi, neanche del Messi, del Bari. Mai stato Hernandez del Bari. Hernandez. Quando mai? No, no, Guerrero era quello. Infatti, Hernandez era quello del Messico, quello biondo, col codino che sembrava Caniggia, che si pippava la cocaina sulla panchina. Ovviamente. La prossima è un caso scottante, diciamo, anche perché è stata... Questa sì che parla di censura. La voglia, forse la censura più grande che abbiano mai subito. Una delle censure più grandi della musica italiana, della musica possiamo italiana. Dirlo tranquillamente. È quasi scioccante il racconto di chi c'era, fortunatamente. Perché a un certo punto Elio e le storie tese al primo maggio del 91, quindi a un anno dall'uscita del primo album, non è ancora scoppiato Tangentopoli. Tra l'altro, hanno... con che canzone avevano iniziato? Con era cassonetto differenziato per il frutto del peccato. Avevano iniziato il concerto con la classica canzone d'apertura e a un certo punto cambiano e dedicano questo pezzo ai vertici della Rai. E iniziano a... Ovviamente il tutto non era concordato con gli organizzatori, quindi... Ovviamente. Cioè, perché non l'avevo mai fatto passare cosa del genere. Tra l'altro... Dove citano Manca, allora, direttore... Vabbè, di citano, Lara... citano Ciarrapico... Ti amo, Ciarrapico... Che era anche il presidente della Roma all'epoca... Prendendo una canzone che era Ti amo campionato, sulla no, quale... No, Ti amo campionato l'hanno fatta dopo, è Ti amo campionato che viene da Sabbiature, sì. E dove poi si accaniranno su... sulla Juve. Sulla Juve. Ma, sì, ma infatti la cosa, cioè, la cosa interessante anche di questa canzone è che loro definiscono jazz, scritto però G-E-Z-Z, nel senso che questi sono quei tipici esempi in cui Elio e le storie tese... mentre il jazz si basa sull'improvvisazione della musica, improvvisano coi testi. Cioè Elio, questa canzone non se l'era mai preparata, ha improvvisato dal palco il primo maggio. E poi, vabbè, bellissimo, poi live su YouTube ne troverete ampi stralci. C'è un video tratto dalla Jalapas che prevede pure il loro intervento, dove c'è Faso che spiega: a un certo punto sono arrivati e ci hanno staccato gli spinotti. E se li sono fumati. E se li sono fumati. No, ma è bellissimo perché loro cantano mentre Mollica intervista Ricky Gianco, quindi una trasmissione, cioè è un momento trash, più che più trash non si può. della serie dobbiamo censurarli, dai, Mollica intervista il primo che hai sotto mano. No, ma poi furono censurati seriamente, nel senso che salirono sul palco di Italiane Cose e, tanto per rimanere l'ennesima volta in tema di citazioni, Elio cita Jim Morrison, il famoso concerto. Urla come Jim Morrison e grida nel microfono, adesso urlo come Jim Morrison, ci stanno portando fuori. E noi abbiamo ovviamente l'estratto. Abbiamo il live, abbiamo. Con, a un certo punto penso sia stato montato l'intervento di Mollica, perché c'è Ricky Gianco che fa io non sono nato, anzi no, io sono nato, e Mollica fa no, mai. in un loop geniale. Quindi queste sabbiature direttamente dal primo maggio, featuring Mollica e Ricky Gianco. Shaking what you do. Sotto controllo, questo è un brano che parla dell'amore, è un brano che dura 12 ore, quindi dura anche meno, in realtà questo è un depistaggio per il funzionario della RAI, ma d'altra parte noi siamo in buona compagnia, perché anche Andreotti è stato giudicato dalla corte inquisitoria per un caso di depistaggio nelle indagini sul tentato golpe Borghese, il caso poi è stato archiviato come del resto altri 410 su 411, e gli unici sfigati che non sono stati archiviati sono stati Guri e Tanassi per il caso della Lockheed, ma d'altra parte Tanassi era il segretario del Partito Socialdemocratico e come lui Pietro Longo che era nella P2 e dopo di lui Nicolazzi che è stato inquisito per le carceri d'oro. Ma tutto questo è stato archiviato in nome dell'amore, come altri 409 casi su 411 casi, come il caso dell'olio di colza del ministro Remo Gaspari e come anche il caso delle armi all'Iraq in cui era coinvolto l'attuale presidente della RAI Manca. Pensate quando era ministro, è stato coinvolto in questo caso. Poi il caso è stato archiviato, ma perché? Il popolo italiano si chiede perché, evidentemente il popolo italiano non è deficiente, se tutti gli anni elegge questi uomini è perché ha capito che loro lo fanno nel nome della nazione e nel nome dell'amore, perciò in occasione del primo maggio io direi di non cantare il solito obsoleto canto di protesta, ma un canto di amore verso questi uomini che hanno fatto in modo che noi oggi siamo qui a cantare in libertà. E allora vi invito a gridare ti amo, ti amo per esempio Andreotti, cantiamo tutti ti amo Andreotti, ti amo, sì ti amo, ti amo Cossiga, ti amo sì Cossiga, ti amo Nicolazzi, ti amo Nicolazzi, ti amo Remo Gaspari, ti amo Remo Gaspari, che atterra con l'elicottero nello stadio della sua città, che ha fatto costruire lui e interrompe una partita di calcio per atterrare con l'elicottero e il pubblico invece di fischiarlo lo applaude perché ha capito che lo fa nel suo interesse. E allora urliamogli ti amo, e dirò di più, urliamo anche ti amo a Ciarrapico, l'attuale presidente della Roma, e non si capisce come abbia fatto, lui vendeva il pesce, c'è una fedina penale lunga così, poi ha conosciuto da poco, è diventato il re delle acque minerali, ha avuto un prestito da Cardi di 39 miliardi con cui ha comperato la Fiuggi, e adesso il personaggio del giorno e ha fatto firmare la pace tra Berlusconi e De Benedetti. Allora gridiamogli ti amo Ciarrapico, ti amo per quello che hai fatto, ti amo per l'emissione di assegni a vuoto, ti amo per la pubblicazione, per le pubblicazioni oscene, questo è amore. E allora lui ha dato amore a noi e noi gliene diamo a lui. Urliamogli tutti, ti amo Ciarrapico. One, two, three, four. Ti amo Ciarrapico, ti amo Ciarrapico. Ma come va, ragazzi? Dai in coro, ti amo, ti amo. Allora, cerco di capire una cosa. Nascendo dalla Raute 3. Scusami. Benissimo. Sì, sono nato praticamente. No, ancora no. tu sei famoso per una canzone rock, per avere una militanza rock dalla fine degli anni 50 ai giorni nostri. Rock. Sono nato praticamente con rock, non sono cresciuto tantissimo, ma sono cresciuto... Rock. E ora sei rimasta solo che un rock. E adesso è veramente il momento in cui c'è il passaggio da rock alla rock. E adesso riascoltiamo un altro frammento. I Masucci è uno slow, una canzone ieri e le storie tese. Come si può? Come si può? Come si può? Come si può? Questa era Sabbiature, no, mai nome fu più azzeccato per questa meravigliosa insabbiata che hanno fatto i vertici della Rai. E ovviamente ci riallacciamo a un tema caro. Loro torneranno da protagonisti nella Rai, Festival di Sanremo 96, la terra dei cachi. La terra dei cachi vince Sanremo secondo molti, e sarebbe stato lo stesso Pippo Baudo a mettersi in mezzo, insomma, e a dare la vittoria a Ron con una canzone che adesso non ricordo neanche il titolo. No, vorrei incontrarti, no, vorrei... Cazzo, sei imperdibile sicuramente. Vabbè, se quest'anno invece abbiamo capito che chi compra più call center vince il Festival di Sanremo. All'epoca quindi... bastava l'amico Pippo Baudo, esatto. Insomma. Mentre oggi Valerio Scanu si è comprato 8 call center. Sì, ma infatti la loro partecipazione fa divertire il pubblico piuttosto che un passato di Sanremo tradizionale. Loro si inventano travestimento di sé, soprattutto nella sera in cui ogni gruppo aveva a disposizione soltanto un minuto, cioè ogni artista aveva a disposizione un minuto per diciamo cantare, esibirsi in una parte a scelta della propria canzone. La maggior parte dei cantanti in gara sceglie il ritornello, loro essendo superiori agli altri suonano in 55 secondi una canzone di 4 minuti, 5 minuti, semplicemente accelerandola, e la cantano tutta. Poi arriveranno secondi e torneranno in Rai dopo tanti anni per condurre il dopo festival. Tipo Baudo morso dal rimorso. Mi chiama al dopo festival. E loro là si tolgono un altro sfizio, cioè di poter pronunciare una parola innominabile, la figa. Sul palco della Rai. Ma lo fanno mica in maniera volgare, con una citazione colta, prendendo largo al factotum, che era parte del Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini. Era una canzone dedicata a Fejez, che veniva chiamata ovviamente Largo Factotum. E quindi le nozze, cioè le nozze di figa le conoscete, figa di qua, figa da là, figa da su, figa da giù. Loro tolgono il ro finale, ancora una volta io non posso rendere l'idea. Poi insomma, Elio si toglie questo sfizio davanti all'Ariston di, come dire, di smerdare proprio i vertici Rai e di andare oltre. E ricordando Fejez, perché poi alla fine anche questo, voglio dire, era un momento commemorativo, perché ricordava di quando lui con loro aveva suonato sul palco. E la prossima canzone è una canzone non geniale, ma di più. Si chiama La bella canzone di una volta, e in pratica è una rivisitazione di una canzone che mio nonno cantava. Non ci sentite più. Ma penso di sì invece. E quindi vabbè, noi continuiamo lo stesso, perché alla fine stavo dicendo che mio nonno questa canzone, nel frattempo se tu puoi con i feedback vedere se ci sentono. No, ci sentono. Ci sentono. Mio nonno cantava, era il suo tormentone, era il tango delle capinere. La serie A mezzanotte va la ronda del piacere, una canzone anni 20 che parlava appunto di una pratica che, vabbè, capirete dalla canzone. E loro ovviamente l'hanno stravolta con sempre l'immancabile vocoder di Elio. E questa è la bella canzone di una volta, presa da che album? È sempre a me, lo devi far dire. Crack. La multa catina. Quell'album lì, comunque. Questa è la bella canzone di una volta. Voi. la mela che a mezz'ora di una volta faceva sorridere la gente che la trovava divertente e la cantava a voce alta. La bella canzone di una volta faceva commuovere la gente che l'ascoltava attentamente e la imparava in una volta. La canta il commissario alle stufante, la fischia il portinaio spazzolante, mentre la balia col popante la trova molto interessante. L'accenna il giovanotto dal barbiere e dopo un po' la sa tutto il quartiere, che pullula di mille capi nere e a mezzanotte c'è l'oscurità. Capi nere, ognuno le vuole amare. Sono bianche, sono nere, sono nella mia città. Che bella la canzone di una volta che si ascoltava andando a capi nere. Noi della ronda del piacere ne abbiamo fatte delle belle. Ricordo per esempio di un mio amico che non voleva andare a capi nere. L'abbiamo portato con la forza ed ha goduto nell'oscurità e ci ringrazia ancora adesso. Mi manca la canzone d'altri tempi, ingenua e piena di malizie, che cementava le amicizie e poi si andava tutti a capi nere. Invece la canzone d'oggigiorno la fanno utilizzando i macchinari, non te la levi più di torno la sua casa Rotterdam. Allora, questa è la bella canzone di una volta, tratta sempre da Crack Crack Crack, dove c'è il Fasso che suona il contrabbasso, piccole finezze così. E la prossima canzone invece che andiamo a mettere verrà preceduta da un classico proprio della musica. Dal re. Dal re. Vabbè, poi dipende dai punti di vista. No, da il re. La canzone è I Nudi fra i nudisti ed è tratta dall'ultimo album di Le Storie Tese, ma da Studentessi. Mentre perché mettiamo il mettiamo Suspicious Minds di Elvis Presley. Malatissimi, cosa hanno fatto? Hanno preso il vinile, perché ovviamente qualcheduno di loro avrà questo vinile, e l'hanno messo, l'hanno fatto girare al contrario. Messaggio satanico, esatto, si sarebbe detto un tempo. E ne è uscita fuori la melodia poi di Nudi fra i nudisti, che altro non è che Suspicious Mind al contrario. Io direi di farvi beccare Suspicious Mind innanzitutto, Così capite, anche se vabbè è tutt'altra melodia quasi al contrario, però questa è Suspicious Mind del re. We're caught in a trap, I can't walk out, because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't we'll be right back. suspicion in your eyes. But here we go again, asking where I've been. You can't see the tears I feel I'm crying. Yes, I'm crying. We can't go on together with suspicion. Dopo avervi fatto ascoltare Suspicious Minds, presa ovviamente quella di Elio e le storie tese, i nudi fra i nudisti dall'ultimo. È strano se parlare con i massi fatti anche dietro. Stava proprio suonando dietro di noi. Stava proprio dietro, ma si va tasco. Vabbè, no, questa mia eccitazione di quando mi ha accorciato a Napoli. Ah, ma si va tasco. Sì, ti immagino un carrozziere di Napoli che dice: ah, ma state andando alla Vena Flegrea, E che state andando a sentire? E facevo: no, i Massive Attack. Ah, i Massive Attack, bello, bello. E partiva dentro il neomelodico sparato dall'officina. Questa è presa da Studentessi, dall'ultimo album. Sì, sì. E vabbè, video genialissimo che vi invitiamo a vedere. Ed è ovviamente Suspicious Minds al contrario. I nudi fra i nudisti. Perché loro ne fanno parecchie di questo tipo di citazioni. C'era anche una sui Beatles, di una canzone Beatles, Orison e Bob Dylan, dove parlavano poi a un certo punto della leggenda, che non si saprà mai se è vera, dei Beatles che lasciano messaggi satanisti se ascoltavate il vinile al contrario. Vabbè, quindi questo fa parte della citazione musicale, potremmo andare avanti per ore. Ma esatto. Sentitevi la canzone, che è meglio. I nudi fra i nudisti. Partirò, ogni estate c'è un dilemma estivo, se andare al mare o andare in monti, dobbiamo decidere. Io ad esempio voglio andare al mare, voglio andare ai monti, là sulla vetta, insieme all'orso. In montagna mi prende la voglia di andare al mare, mi butto dal monte. Tu sorridi, io mango. cader lì non va. Vai con gli ascetici. Ma sono ascetici. Noi ignudi fra i nudisti. Noi ignudi fra i nudisti. Mi bruciano i seni. Che cagate. Mi entra la sabbia. Che cagate. Partirò. Ai monti puma feroce, yeah, vuole ucciderci. Sì, l'ho visto ieri a qua. Sono scettica. Ah, sono scettico. Noi ignudi fra i nudisti. Noi ignudi fra i nudisti. Noi ignudi fra bagnasciuga, fare il sudoku. Attenzione, attenzione, attenzione. Sono Maurizio Crozza e ho da dirvi qualcosa a proposito della Toscana. Vi ricordate un po' di tempo fa? Vi avevo chiesto di non portare via i sassi dalla Toscana, perché la Toscana stava scomparendo. Oggi questo allarme è rientrato. Non si sta più estinguendo la Toscana, come sospettavamo. Al contrario, la Toscana oggi è in sovrappiù. C'è molta più Toscana oggi. Scusate, c'era una mosca. Ed era ignudi fra i nudisti. Ci scusiamo con Fefo se non riusciremo a mettere il congresso delle parti molli, che però vi invitiamo ad ascoltare. Dura troppo, Fefo, non ce la faremmo coi tempi, però soprattutto Fefo, ma anche noi vi invitiamo ad ascoltarla. E invece abbiamo inserito un altro pezzo, per fortuna, perché non poteva mancare. Dubbi di ieri sul nostro domani odierno. Ossia la storia di un giovane uomo che si prepara ad uscire con una giovane donna. E quindi tutti i preparativi ci sono, tutta l'attesa e soprattutto la liberazione. Diciamo da certe arie. Esatto, arie nocive. E questa è conosciuta dai più come Abitudinario. Vabbè, è una sempre tratta dal primo album. Un altro must, difficilissima da ascoltare i concerti. Io due concerti non l'ho sentita mai. Non la fanno. No, è difficile, questa veramente. Siamo alla tradizione qua, siamo. E vabbè, ovviamente anche il video genialissimo, col ritornello che piace tanto ai giovani. Diteci perché, se la mucca fa mu, il merlo non fa me. E quindi questa è Nubi di ieri sul nostro domani, ossia Abitudinario. Il nostro domani odierno. Odierno. Thank you. sono abitudinario, leggo la targhetta sopra l'ascensore. Qual è la capienza, quanti chili porta, poi si apre la porta e non lo so già più. Sono abitudinario e se mi soffio il naso devo controllare quello che ho prodotto, quanti chili pesa e se c'è del pericolo per l'ascensore. Seduto nella vasca emetto certe bolle che salendo a galla corron sulla schiena fandomi felice, giunta in superficie non mi piacciono più. Sono abitudinario, non mi giudicate, siete come me. E adesso un lieto ritornello che non c'entra un cazzo ma che piace ai giovani. Ditemi perché. Se la mucca fa mu, il merlo non fa me. La nostra vita è una sciarada, sulle prime sembra Xix e invece Zxix. Ditemi perché. C'è un dirigibile marrone senza elica e timone dentro me. Quando c'ho la ragazza faccio la conchetta per sentirmi il fiato. Sto vent'anni in bagno, penso che si chiava, dopo non si chiava e non mi lavo più. Cerco nelle mie narici una testimonianza delle mie radici, ma vi trovo un fico e lo dovrò spalmare sotto qualche banco come in gioventù. Questi sono i miei costumi, vendo paralumi, siete come me. Altro ritornello che non c'entra un cazzo ma che piace ai giovani. Ditemi perché. Se la mucca fa mu, il merlo non fa me. Hi, we are Wayne Jackson and Andrew Love, the Memphis Horns. Hi, I am the Raiders. Big Trouble. Thank you. Ditemi perché. C'è un dirigibile marrone senza elica e timone dentro me. Giunto al termine del giorno, cerco fra le coltri un poco di speranza, petto in abbondanza, non ho più sgomento. Lieto mi addormento, ebro dei miei gas. Anche il finale alla Osric Tentacles alla fine di Abitudinario. E ovviamente il congresso delle parti molli mi dicono che potrete ascoltarla mercoledì su Salute e Felicità, che non è Salute e Libertà, ricordiamolo. E, quindi mercoledì alle 21, poi andate a spulciarvi un po' il palinsesto per tutti gli altri appuntamenti. E a brevissimo siamo lì col sito, siamo pronti quasi. E nel frattempo, per quanto riguarda questa trasmissione, ma anche per le altre, se andate sui vari blog cliccando sul nome della trasmissione nel palinsesto del sito, potrete riascoltare le puntate vecchie in streaming. Quindi anche tu, Elio, potrai. Ma non lo sapevo già la prossima canzone. C'è qualcuno che sa già la prossima canzone. E questo è incredibile. E salutiamo la Giussi allora. La conosco io, però la saluto lo stesso. Ma l'abbiamo detto forse o no? Che cazzo, io non l'ho detto. Abbiamo lasciato il microfono aperto, ti immagino. Forse. Vabbè, comunque, la prossima canzone non sarà mio cugino. E sarà invece mio cugino. E sarà mio cugino con due G, perché ovviamente, essendo io di Reggio, non posso che raddoppiare. E mio cugino... Ah no, c'è stato un quid pro quo, non si parlava di mio cugino, si parlava di mio cugino Fefo, non di mio cugino la canzone. E allora qui c'è dell'astrale, scusa. È incredibile, ci leggo nel pensiero. E la prossima canzone ci dà lo spunto per parlare delle collaborazioni televisive di Aereo Le Storie Tese, perché mio cugino c'è un grande ospite che è Aldo, di Aldo Giovanni e Giacomo, perché come voi saprete o non saprete, ve lo diciamo noi, loro sono stati per tanti anni ospiti di Mai Dire Gol, di tutte le trasmissioni della Jalapas, Mai Dire Mondiali, Mai Dire Banzai, anche se forse sì. Sbaglio, no, ma forse no. E loro, insomma, hanno scritto sigle da Amico Uligano, che è mitica, a quella di Nessuno allo Stadio, dei Mondiali del 94 sugli Stati Uniti, anche quella, Ti Amo Campionato sulla Juve. Sono ancora tutt'oggi protagonisti di Parla con me della Dandini, insomma. Hanno fatto Zelig con Bisio. E tra l'altro, proprio su Mai Dire Gol, c'è un aneddoto molto bello. Loro un anno fecero una rubrica che parlava delle cover, e praticamente voleva, sempre ironicamente, mettere in evidenza come i cantanti italiani tipo Albano, che copiava da Michael Jackson. o tipo Zucchero copiavano molto, diciamo attingevano molto dalla discografia straniera, e loro dicevano: ah, guarda, sentite come gli stranieri copiano dagli italiani, quindi facendo il procedimento inverso. Finché rivelarono una chicca che per i feticisti come me già era nota, però ai più non era nota, che Aereo e Le Storie Tese sono stati, cioè, non sappiamo, questo non si può dire con esattezza, non vorrei dire. Non vorremmo essere querelati, ma c'è una canzone famosissima di un cantante famosissimo che riprende un riff loro. La canzone si chiama Elio, è della fine degli anni 70. Il riff famosissimo di questa, del 78 se non sbaglio, il riff di questa canzone era il celeberrimo riff di Fly Away di Lenny Kravitz. Cioè, ma voi ci immaginate se Lenny Kravitz con stuoli di femmine che gli si prostravano i piedi andava a copiare da Aereo Le Storie Tese la sua canzone forse più famosa, perché Fly Away penso che sia più famosa di Lenny. Ed è così, e loro, cioè, lo dicevano, e loro lo hanno detto, insomma, senza neanche troppa modestia. D'altronde io non mi meraviglierei, cioè, sono troppo forte. Non abbiamo tempo per mandare la canzone di Albano che avrebbe copiato Michael Jackson, anche perché pace all'anima sua, e lo lasciamo in pace. Però la prossima è proprio mio cugino, che è proprio l'esempio più bello di luogo comune, ossia di quando uno racconta del fantomatico cugino. Se chiamo mio cugino ha fatto questo e quello, citando proprio la canzone. Il personaggio era Rolando, il personaggio, se ve lo ricordate, Rolando di Mai Dire Gol. Era quello che aveva la maglietta arrotolata con il pacchetto di sigarette infilato, la Mark Landers, giusto per citare, da Ollie e Benji. Con una parrucca bellissima. E quindi presa da... Non è presa, spero, da... Era da Hit the Figgis, era la prima del lato B di Hit the Figgis. E allora beccatevi mio cugino. Con la moto, mio cugino, mi ha detto mio cugino che poi si è tolto il casco, si è aperta la testa. Mio cugino si è tolto il casco, mio cugino si è aperta la testa. Mi ha detto mio cugino che una volta ha trovato in spiaggia un cane, invece era un topo. Non ci posso credere, ora mi mio cugino. Mi ha detto mio cugino che una volta è stato con una che poi gli ha scritto sullo specchio benvenuto nell'AIDS. Uguale, uguale, uguale, uguale. Mio cugino Topocana. E mio cugino benvenuto nell'AIDS. Mio cugino, mio cugino. Mio cugino è rispettato. Questo e quello, mio cugino mi protegge quando vengono a picchiarmi, perché chiamo mio cugino, anzi io chiamo a mio cugino. In discoteca ha conosciuto una tipa che però poi non si ricorda più niente, e alla fine si è svegliato in un fosso tutto bagnato che gli mancava un rene. Mi ha detto mio cugino che sa un colpo segreto, che se te lo dà dopo tre giorni muori. Mio cugino, mio cugino. Mi ha detto mio cugino che da bambino una volta è morto. Mio cugino, mio cugino. Mio cugino è ricercato. Amico di tutti. Mio cugino ha fatto questo e quello. Mio cugino mi protegge quando vengono a picchiarmi, perché chiamo mio cugino. Anzi, sapete cosa vi dico? Io chiamo a mio cugino. Era mio cugino. E anche qui le citazioni si sprecano quando dice si d'accordo, Free Valbreda, Free Mandela e tutti gli altri. Tra l'altro Mandela viene citato anche in Evviva la Visione, che ci aveva segnalato Roberto. Roberto, e purtroppo non riusciamo a mettere, ci manca qua nella playlist, ragazzi, il tempo purtroppo sta per finire. Esatto, però prima del finale abbiamo una canzone, che una delle canzoni, non diciamo... Una anche... delle meno conosciute. No, ma neanche, sì, un po' per feticisti, e Faro, con citazioni che... soprattutto di Gianni Morandi, e anche là ci sarebbe Fossi Figo, un duetto, però questo è il tempo a nostra disposizione, purtroppo. E però ha un ritornello che sì, è stato usato ed abusato. E tra l'altro, a proposito, visto che stavamo parlando di citazioni, vorrei ricordare che non si fanno solo citazioni di musica, si fanno citazioni di cultura nelle storie tese, e loro per dimostrarlo citano anche esempi di letteratura. Quindi abbiamo un'altra canzone bellissima, un hard rock portentoso proprio sui versi di Ugo Foscolo, sui sepolcri di Ugo Foscolo, cioè per farvi capire quanto sono fuori di testa questi, eccetera. Poi c'è, e poi Super Giovane, che anche questa non ce la faremo a mettere, ma con Abatantuono e Mangoni, fantastica nel ruolo di Super Giovane che combatte il sistema dei Matusa. E la citazione a un certo punto dice: Catoblepa, io ti do le mie tepa. E cos'è, e uno si chiede cos'è il Catoblepa? Catoblepa è un animale mitologico citato una sola volta nella storia della letteratura classica, nell'Historia Naturalis di Plinio il Vecchio, quel pazzo che è caduto nel buco del vulcano. Sì, no, ma perché Elio poi lo rivendica molto spesso questa sua cultura sui classici, proprio su un tipo di letteratura anche piuttosto pesante, se vogliamo dirla così. Però loro lo riescono a fondere con Catoblepa, io ti dono le tepa. Cosa sono? Sono le scarpe da ginnastica che utilizzavano i giovani milanesi alternativi negli anni 80, paragonabile, che so, alle gazelle. Ma cos'è, pubblicità occulta? No, questa? No, vai. No, si può dire. E loro, lo dicono così nella canzone come se niente fosse, ma mo ci stiamo allontanando dal minutaggio. È per questo che vi mandiamo subito Faro. I nostri pezzi iniziano tutti così, non so se avete capito, quelli vecchi. La neve di maggio rimbalzava superba, mentre io ramingo giostravo sul prato. Ricordo bene quando ti dissi con grande calma, come giù cascasella, ma vaffanculo, ma vaffanculo, ma vaffanculo, ma vaffanculo, ma vaffanculo. Guardare la tele è una morte anticipata, dietro consiglio di un faggio questa sentenza io ti ho svelata. Ma vaffanculo, ma vaffanculo, ma vaffanculo, ma vaffanculo, ma vaffanculo. bandiera faro di Elio e le storie tese. Prima di andare all'ultimo pezzo, che è quello con il quale concludono tutti i loro live. E se non lo fanno, cioè c'è la rivoluzione, succede. Tant'è che questo pezzo viene invocato già prima dell'inizio del concerto, con un urlo ritmato, con battito di mani. Ma anche perché ci ricorda un po' tutte le feste delle medie a cui abbiamo partecipato. È perché Forza Panini ormai si sente ai concerti non solo di Elio, ai concerti di tantissimi artisti, ormai la gente parte così, Forza Panino, Panino e Fejez, ennesima citazione, lo ricordiamo, di questo grande musicista che è scomparso purtroppo anzitempo, ma che, come dicono loro stessi nei concerti, è morto facendo musica. E quindi, per un musicista non c'è morte migliore. E beh, magari ci metteremmo la firma. Un festa po' delle medie mi ricorda veramente un sacco di anni fa, ormai sto i facendo vecchio, gli Enta si avvicinano. Vabbè, non diciamo quanti anni ha. I sandwich con le bandierine messe sugli stuzzicadenti e il nome sui bicchieri di plastica. Alle mie feste, tra l'altro, alle mie feste delle medie, io ricordo la hit era sicuramente Bombastic di Shaggy. Grande. E poi c'erano i lenti classici, che erano quello di Ghost. Poi c'era Come Mai degli 883, che all'epoca andava. Immancabili 883, ovviamente. C'era Back for Good dei Take That, ragazzi. Cioè, e lì le ragazzine a Take piangere. E i Take That sono citati in TV Mudab, canzone in cui duettano con Giorgia e che ricordano il ciccio bombo cannoniere, che sarebbe Gary Barlow dei Take That. Ricordi Gary sì, Barlow? Il biondo. E ovviamente un pezzo che ha un video spettacolare, con anche se il video è tratto dal live, tratto. Esatto, è una sorta di pifferaio magico Elio, che mette le aspirine nell'aranciata amarissima che tutti quanti bevevano. E un po' di psichedelia, come il pezzo psichedelia proprio di Elio, che tutte le teste si porta via, per citare sempre loro. E come ci dice un'ascoltatrice che oggi è stata fedelissima, chiedo Ponzi e ci danno avanti. Esatto. Ma perché? Gli avanzi non sono gli avanzi della festa, ma è Piero Avanzi, sì, che è un amico d'infanzia di Faso, e ricordiamolo questo. Ovviamente questa trasmissione sta purtroppo volgendo al termine, però vi lasciamo con un brano che potrebbe essere dire. Un reprise, una grande richiesta. Una reprise, però parlando di tutt'altro, forse di un certo Miles Davis con Kind of Blue, ma non diamo niente di certo. Io vi ricordo che la prossima puntata, quasi sicuramente, ci saranno i Collective Unconscious come ospiti. Sono un gruppo di Roma che ha appena terminato di registrare l'EP, il loro demo. Qua ci chiedono il reprise, io te lo dico. Facciamo un'altra puntata con tutto sugli inediti, sulle cover. Cioè, non so se avete sentito le cover, scusate, ma questa fa parte della mia deriva del vero mestiere, che è di pseudo giornalista. Cioè, dalle intercettazioni della Crick del G8 di Bertolaso, cose geniali. Fate tra l'altro, è uscita un'altra canzone su Bertolaso. Parla con me, dai Salario Village People, la telefonata. Grande Francesca, che faceva solo massaggi, ricordiamo, a Bertolaso. Non era mai... Monica era. Ah, Monica. Tant'è che Bertolaso poi su questa cosa aveva anche fatto una battuta su Clinton, dicendo: io e Clinton abbiamo un problema in comune, si chiama Monica. Che, vabbè, e sorvoliamo. Bestia. Comunque, ma anche volete ricordare anche le caricature delle canzoni di Sanremo, da quella di Povia, di Luca Raghei, che loro rifanno poi con YMCA, bellissimo. Per finire con l'ultima, Emanuele Filiberto, Italia, che urla come un mostro, è proprio il ritratto. C'è il fuori onda di Fini contro Berlusconi, già sta fuori onda, bellissima anche quella. Cioè, ragazzi, datemi 12 ore di trasmissione, vi faccio capire cos'è. Facciamo al teatro. E quindi ti amo Bertolaso, vi amiamo tutti voi che siete stati fedelissimi ancora una volta. E vi lasciamo con Tapparella e soprattutto con Out of the Shell dopo di noi. E niente, alla prossima puntata, sempre su Pink Moon e su Transizione di Fase. Ciao. Ciao Wanyu. Voilà. Parella giù e poltiglia più ascella purificata, ti ricordi che meraviglia la festa delle medie. Non importa sai, ci avevo judo, ma se serve vi porto i dischi, così potrete ballare i lenti. Ma perché siete così? Io che credevo, io che speravo, parteciperò, mi autoinviterò, dannata festa delle medie. Presento. Ciao ragazzi. Faccio un vento e gli cambio il clima, temporeggio bevendo spuma. Chiedo forze e mi danno avanzi, Cristo, perché paradiglia scatta il gioco della bottiglia, se avrò culo potrò baciare. Palpare. Ma se spegni tra poco finiamo. Sì vabbè, però poi balliamo. Non ci rompe i coglioni. Sul piatto gira un jegge, danzo da solo e me ne vanto. Fantastico zimbello io non consumerò, non decontirò. E arrivando non ho visto neanche l'ampio parcheggio all'ingresso, insomma dai maestri, vediamo la linea. di Dettelani che trava l'Atlante, una voce lo se volevi da lescia la Orzeu.